Parte 2. Cavaliere, battaglia. Contiamo infiniti cadaveri, siamo l'ultima specie umana. Siamo il cadavere che flotta putrefatto su della sua passione. La calma non mi nutriva, il solleone era il mio desiderio. Il mio pio desiderio era di vincere la battaglia, il male, la tristezza, le fandonie, l'incoscienza, la pluralità dei mali, le fandonie, le incoscienze, le somministrazioni d'ogni male, d'ogni bene, d'ogni battaglia, d'ogni dovere, d'ogni fandonia. La crudeltà a parte, il gioco riposto attraverso il filtro dell'incoscienza. Amore, amore che cadi e giaci, supino la tua stella e la mia dimora. Caduta sulla linea di battaglia, la bontà era un ritornello che non mi fregava, ma ero fregata da essa, la linea della demarcazione tra poveri e ricchi. Io non so se la tua faccia sa ripetere una tua crepa interna, o se i miei sensi meglio sanno di questa mia virile testa, che è vero se è falso colui che è bello, bello perché simile, o bello perché buono. Io cerco e cerco, tu corri e corri, e io corro. Io sono una che sperimenta con la vita e non può lasciare nessun rivale toccargli il cuore, le membra insaziabili. Io sono una che lascia volentieri la gloria agli altri, ma si rammarica d'essere trattenuta dagli infelici nodi della sua gola. Io sono una fra di tante voraci come me, ma per Dio io forgerò, se posso, un altro canale al mio bisogno e le mie voglie saranno d'altro stampo, e se sicura trionfo su delle pene, trionfante e penitente rincorro l'intero perdono, e che Dio permetta la mia presuntuosa discordanza con le guide del cielo perlato. Ricorda ch'io fui tra i più stanchi, fra i cavalieri delle nostre pecche. Ricorda che tutti noi fummo nati per presentare tutte le stanchezze. Ricorda questa mia vita attaccata all'ignoto sorseggiare delle tue pupille. Riposa duramente fino alla fine, e che candidi siano i tuoi giorni senza riposo. Io non saprò mai guardarti in faccia, quel che desideravo dire se n'è andato per la finestra. Quel che tu eri era un altro battaglione che io non so più guerrare. Dunque, quale nuova libertà cerchi fra stancate parole? Batte allora come sul ferro la materia di sé. Con un colpo d'occhio sentiva la presenza simultanea di tutto ciò che nella terra cresce, e questa coscienza della situazione attuale lo aiutava come una disciplina. Ciò che non è compiuto spinge il modo del procedere durante la costa dei millenni. Nel mentre cantano nel petto i volti dei suoi sogni, muta al mattino in albe anche dorate, e intanto la miseria dell'uomo va consumata dentro di sé nell'arca del suo spazio interiore. Intendeva infrangere ciò che da inadeguato si ricompone ad ogni istante. L'attrazione dinamica del fare mancò a quel punto, e alla fine della danza più lunga l'abbandono e il silenzio della grandiosa solitudine, lo rendeva eterno, come collocato su di un punto raso della terra, sotto le stelle. Non era più chiamato in battaglia da tanto tempo. Il mio inizio è forse il solo inizio, disse l'uomo assetato e si sedette a guardare l'evidenza del suo destino. Il cavaliere che guarda la luna non cerca e non aspetta niente. Beveva quel soffice vino d'agosto e teneva la porta aperta sulla laguna afosa della fine d'agosto. Musica in viole di quel tempo. Vino di Graal, arrossisce il suo silenzio il vino e gli dà corpo, col respiro batte il ritmo della mente. La configurazione del male così conosciuta era allora impalpabile. Sembrava non ci fosse traccia. E si stacca la mente dal corpo quando accade. Si stacca, si scolla come ad un burattino fatto male. Lo stupore riempie la bocca, ma la fuga mutasi inietta, lenta. Oculata nei soli che osino rapidi e vaghi, un moto d'accusa. Moto al luogo modesto per la zampetta di coniglio andata male. Le orecchie rosse ronzano, ma di un amore tradito che incuta. Paura e non muta. Le mutande strappate. L'aria che inamida il vento accade sempre d'estate. Quando col caldo molesto gonfia. Umido il dito che scosta e straccia la camiciola della salute o indica l'impertinenza da caricatura del potere che ci abusa. Ma la sua forza assomiglia a quella di un titano. Attorno a lui si sveglia l'odore dolce, come quello di ciò che sta cercando. L'asta lo spinge avanti, serve da pertica, da ponte, dona la direzione, vince nella lotta. Egli si volta e trova luce, egli si volta e trova luce. Si abitua come a una condizione, può volare e navigare, dall'acqua avvolto, dal profondo di sé, egli si è raggiunto. Mai avrebbe immaginato fosse così semplice e così terribile come essi da bambini, nella disperante solitudine conscia della natura, e dover rinunciare egli deve poter crescere qui alla fragilità, alla forza interna di ognuno. La menzogna. Rimuovere gli antichi angeli dai loro piedistalli della pietà. Rimuovere gli antichi angeli dal loro piedistallo della fiertà e buttar tutto in mare. Rimuovere gli antichi angeli che con il pregiudizio s'attaccano alle mie gonnelle. Rimuovere ogni sorta di viltà, rimuovere ogni pentimento, rimuovere la fierezza e la pietà. Rimuovere perfino il vento se s'attacca alla tua pienezza, mangiare, dormire, sognare, non prendere sonniferi, mangiare, dormire, sognare e osare rimuovere l'antica viltà.